conflitto, dopo che viene cercato uno come si mette di capo condominio, che sia un'agenzia, che ne abbia meno una trentina di condomini, capito? No, non lo so, meno una trentina, ma da sapere come lavora. Poi ho saputo che questo di sotto ne ha combinati altri, praticamente ha parlato male di tutti. Quello è bagassa, quello è corrotto, quello è froccio, tutti ne ha detto qualcosa, capito? Quindi non l'abbiamo ancora più sulle balle, ci sta, sul culo ci sta. E tante altre cose che adesso non ti dico qua, che non ti posso dire. Io me lo immagino, preoccupato. Comunque daremo il ben servito anche alla cara amministratrice, capito che ha detto qualcosa contro di noi. Scusa, sono andato anch'io, ho poco di età, ma a me mi sta dicendo. E sai cosa si è permessa di dire questa stronza di amministratrice? Ce l'ha detto un ex condomino che adesso abita da un'altra parte. Come? Allora, noi paghiamo il condominio, anzi pagavamo il condominio sempre puntuale, magari non andavamo regolari, perché a me non la vedevo già, meglio stavo, no? Magari li portavamo 2-3 mesi assieme, no? Non perché non avessimo soldi, ma per non vedere la sua bella faccia, no? Beh, questa stronza amministratrice è andata a dire a questo che non abita più qui, che un mese noi non potevamo pagare il condominio perché avevamo le pezze al sedere. Capito questa gentaglia? Che non potevamo pagare perché eravamo, praticamente ha detto che avevamo le pezze al culo, capito? Già glielo dirò in faccia, capito? Una stronza anche lei. Mamma se l'è legata al dito, ha detto già glielo do io il tanto quando capiterà l'occasione. Via, via, via, salta, non ci va quello, capito? Lo dico io. Stava ieri notte, è stata fatta una festa, la verità, festa, è la festa della birra, la verità. Questo poveraccio cosa ha fatto? Ha fatto venire un complesso di 3 persone, e altre persone, in realtà non era proprio un complesso di cazzo, perché cantavano benissimo. Ha suonato dalle 8 e mezzo sino alle 11, e beh, stamattina sera si era letto. Dentro capocotto mi aveva detto che era stato casino. Non sono neanche a permettere di fare una cosa del genere. Ma ci pensi, cazzo, come la c'è prova? C'era la gente che arriva a piedi. Marco, ti giuro, se è stato bravo, non è fatto venire. C'era gente che veniva a piedi per ascoltare questo complesso che suonava bene e cantava bene il canzone sassarese, addirittura anche roba in sardo e così posso dire anche c'erano due o tre cantori normali. Beh, eppure qualche coglione si è lamentato, tranne quelli di fronte, hai capito? Sono il palazzo mio, tranne quelli di fronte. Quelli di fronte erano tranquilli, beati, applaudendo, mangiando fuori. Eppure lì, l'ho trovato sempre che ha fatto. È geloso, non gli ha fastidio tutto. Ah, che se caghi gli ha fastidio magari, per dirsi. Ecco, allora digli a questo di farsi un clistere. Io tranquillo, faccio un clistere. A questi due, questi tre che sono, non è possibile. Eravamo tutti fuori, c'erano tutti fuori, cazzo. C'è gente, le persone quando tu fai una festa, quelli di piazzetta che si avvicinano, quei bambini, beh, così a ieri sera, cazzo. La gente purtroppo è gelosa di queste cose qua. Poveraccio, quello l'ha fatto per raccogliere qualcosa più, quanto per bere, cioè per ricassare per la birra, per mangiare, cose del genere. Ma lascialo vivere, cosa mi ha fatto, cazzo. Se ti piace la musica, la ascolti. Cioè, penso che uno va in piazza a ascoltare, non è che... Perché se ne passo di sopra, perché facelo cantare. E dici, beh, ormai tanto è passata la cosa, quindi cosa rompi le palle adesso? Lo so, ma non fa più, perché cioè, sentire una cosa del genere, quello poveraccio ha detto questa cosa qua, l'ha pagato lui, li ha pagati lui quelli per cantare, non ha pagato ragazzini, ha pagato persone, sì, ha capito, il discorso è quello. Quello mio ha speso gli 500 euro per dire. Per far cantare queste tre persone, erano tre persone serie che cantavano canzoni sassarisi, non è che cantano con le altre come i ragazzini, capito, che si vedita, li metti con karaoke e cantano, io da canto canto. Beh, questi hanno fatto fuori, hanno dato la roba loro, le casse, tutto si aveva, sono dicendo. Eppure di ogni mattina per tutto casino, non la sera, di ogni mattina. E vabbè, io quello che gli avrei detto te l'ho detto, no? Di farci un fistere. In bocca però che se lo faccia. Fate, guarda, io e la baracchino. Stavo chiamando la verità, se c'eri qua, se sei venuto qui se vuoi divertirti. Fino alle 11, perché era una cosa bella, veramente bella, guarda, ti giuro che era. C'era anche un bel freschetto per dire si stava benissimo. Eppure qua, ho avviato le due antipatici che ci sono qua, allucinante, cazzo, non è possibile. È un casino quando mi guarda, forse è meglio vivere in campagna, forse sta meglio. Sì, il condominio è sempre un casino e sarebbe meglio abitare in una villetta lì, anche dove sei tu, in quella zona tua, una bella villetta da solo, e così nessuno ti può fare niente, e se ti dicono qualcosa di farti vicini, di far vedere il culo. Sì, quando si va, se sei vecchio, io mi ricordo quando c'era la notte bianca, te lo sto dicendo, c'era ogni 200 metri c'era un gruppo, c'era che suonava e cantava, davanti al cieco, davanti al bar, quello che era. Nessuno rompeva le balle, nessuno rompeva le balle. Qua, cazzo, è una cosa che sembra che non abbia mai visto nulla qua, sembra che sei. E tutti dormono a quest'ora. Sì, lasciali nella tomba, lasciali da soli nella tomba. Ascolta, cosa ti volevo dire? Oggi appunto ero a Porto Torres, al mare, allo Scoglio Lungo, e tornando un po' all'uscita di Porto Torres ho incontrato i carabinieri, alt, forse di blocco, no? Chiedono documenti, quindi patente, carta di circolazione, no? Hanno controllato, era un normale controllo, ho detto sicuramente mi chiederanno del baracchino, invece non mi hanno chiesto niente, non ho detto nulla. Meglio così, non è fregato proprio l'accidente del baracchino, visto? Ma come mai? È strano che non abbiano chiesto. Allora Antonio, io potevo anche portarmi il VHF, il bipanda in macchina, guantini in VHF, e loro non controllavano nulla. E già cambiate la fregata, è nata 27, non te lo vuoi capire, già cambia fregata. Ci sono dei gente che non ti credi che non ci sia, no? Che la carabiniere che sia abusivo in quella frequenza, fregata. È stato bello, ma l'ho portato con l'antenna. E avevo la 27 non mi è fregato niente, capito? Eppure quella è un'antenna un po' anomala, Antone, cioè è quell'antennino del Maxcom che sarà sui 70-80 centimetri, pare. Cioè, quella del baracchino sono lunghe lunghe, lui poteva pensare che fosse anche una mezz'onda per la VHF, da. Ah, no, è diverso la cosa, io lo sai. Eppure sai, Antone, che ci sono antenne per baracchino che sembrano antenne VHF, tipo l'antenna LEM 1640 o roba del genere, no, 1603 mi pare si chiami, praticamente sembra l'antenna dei sembra l'antenna dei vigili urbani, cioè ha quel dischetto metallico e poi ha quella spirale e poi lo stilo dritto. Sì, già la conosco. In pratica sempre dal 1800 la Minox dell'800, in pratica, è precisa. No, questa somiglia di più della Minox. Però che differenza c'è dall'antenna dei vigili urbani all'antenna CB che assomiglia? E la carica c'è, basta, non è che ci somigli di altro. Solo la carica c'è, è diversa. Lo stilo è uguale identico, solo lo stilo, ma la carica è diversa. Esatto, mentre l'antenna dei vigili urbani ha il dischetto, cioè lo stilo inizia, c'è il dischetto, poi la spirale lunga e lo stilo, qua c'è la carica, partendo dal basso, la carica, il dischetto e poi la spirale e lo stilo. E così. Però magari sai, un occhio non attento, oppure uno che non ci bada, potrebbe credere che un'antenna UHF è quella. Oh, e si nota una cosa del genere, fegato. Insomma, non c'è modo da camuffare l'antenna bipanda dall'antenna baracchino, no? No, non c'è nessun modo. Ti dico di più, c'è un'antenna della Sirio, no? Che assomiglia alla Diamond NR770H, che praticamente è alta un metro e ha, partendo dal basso, quindi lo stilo, al centro c'è la carica o bobina che sia, e poi c'è il resto dello stilo. Ecco, c'è un'antenna CB lunga un metro che ha lo stesso pezzo di stile in basso, poi la carica in mezzo e il resto dello stilo. Certo che la carica dell'antenna CB è un po' più lunga, no? Mentre l'antenna della Diamond Bipanda c'ha una carica piccolina, no? Lì c'ha la carica un po' più lunga, quindi un occhio preparato se ne accorge, ma un occhio non preparato potrebbe prenderla per un'antenna punto Bipanda. Beh, la riflessione ce la sai, da una all'altra. Eia, comunque a primo acchito non è male. Mi piace anche quell'antenna, la danno con la base magnetica da 110 e poi c'è appunto, come ti ho detto, la carica, il dischetto, la spirale lunga e lo stilo. Costa 37 euro, non costa molto. Dico una sincera. Sì, è lunga 85 centimetri. Perché c'ha appunto la carica della spirale su e poi c'ha la carica, la vera e propria carica sotto. Non capisco. Aspetta che fai una cosa. Metà. Sono sbadiglio. Potevo avere anche il Vuitton in macchina, non lo avrebbero chiesto niente. Guarda, fatto come ho fatto, te lo sto dicendo. Lasciami trovare la persona giusta, e vedrai che non ho pigliato la pareccia, sono l'unico a averlo a Sassari, ne prendo due nel petto. Uno per me e uno di riserva. Se faccio vedere io, mentre sono cazzo a me le macchine, non male. Io due di quelli, che ho finito di rompermi le balle con. Guarda, se io avessi 350 euro disponibili, io domani l'avrei ordinato, domani stesso, dal sito suo, però dal sito ufficiale, dalla casa madre, e avrei chiesto di spedirlo con DHL, il corriere, no? Quindi a Oma la dogana dovrebbe essere meno, chi lo sa, e ti arriva in 5 giorni. arrivano. Non è che facciamo la richiesta, non te sono cazzo. Era 3-2. Era 2 di quelli lì. Così non mi ripeto un pochettino. A giocarmi. Peccato che... E cosa? Non ha le ferme. Che cosa me ne frega le ferme a me? Perché forse le ferme usavo io, così 80. Ma ho usato le ferme, la verità si dica. Quindi non me ne fate proprio niente. Mi è andata solamente la M, non te so nient'altro. A me me ne frega però. Se uno ti dice passa le ferme, dove mi attacco? La chicchiola? C'è di aria parecchie che vanno le ferme, caraio. Scusa, gli apparecchi, gli hai 3 apparecchi che vanno in FM, 300 canali. Cosa fai a tua casa? Ci metti 2 antenne e sei tranquillo. No, no, non ne ho baracchini io. No. Non ne ho. Ma se abbassano qui ti prende canali. Allora, fammi pensare, l'FM500S ha l'FM, però è tutto strano, il 548 ha l'FM e va bene, Lafayette Ares ha l'FM e funziona ottimamente, poi il 48 XL ha l'FM e il Maxcom non ha l'FM, vabbè. Poi il Comex all'FM, il Superstar 3009 all'FM, sì, già c'era l'FM, da. ma sai, il Kenwood ha tutto, MFM, SSB. Comunque Antonio, sai perché ti dico che il 440 è un buon apparato da prendere, perché ha l'accordatore incorporato, guarda che non è da poco, un accordatore esterno paghi 150 euro minimo, che sia automatico che sia manuale. Sì, non c'è solo prendere, guarda, ma secondo me avevo 20 anni, guarda, non dovevo comprarmelo, ho comprato lo che mi compro, scusa, io so che parecchi di voi sono usciti da poco, fanno tutto, quindi no. Assolutamente no, non ci posso neanche io, perché di lontano non le piglio più. Già ne avevo tolte per il mio, figurati. All'altro mi avevo tolte anche le balle, quindi non volevo più sapere di quella roba lì. Cioè gli effetti che c'erano prima, mi hanno tolto così per me, a me adesso. Quindi a un certo punto non le piglio più perché sono male. Di nuovo, tranquillo, non me ne frega niente, è mio e basta. Quando non vuoi, abbiamo ricevuto la rondezza. Beh, a me non dispiacerebbe, certo è di 20 anni, ma si è tenuto bene, insomma. E i componenti si trovano ancora comunque, no? Sì, già si trovano ancora i componenti, perché non c'è problema. Hai detto la parola magica, componenti. L'altro SMD, ricordati, fai tongue e tutto SMD, se si brucia ti lo lampi, e sono 350 euro buttati. E anche nel Kenwood, se si brucia il filare ce lo butto, perché il filare non lo ritrovi. È sempre la stessa identica cosa, non cambia niente. Sì che li trovi. Ma quei siti eBay dagli Stati Uniti te li tirano dietro me. E vabbè, comunque non voglio più sapere anche io. Non voglio più. Ma cosa va a regalare? Figurati tu. Uno è già abbastanza problemi con la Kenwood. Quindi, preso l'uovo, preso sulla mano, sempre problemi di c'hai. Quindi non voglio sapere, mi piglio un buon apparecchio nuovo, se per questo al limite spendo 500 euro con quello che sono, adesso c'è un nuovo, il mio, se lo brucio io, e se la mia ancora. Non è che devo avere qualche difetto, devo cosa vado a prese per vent'anni, no? Ma tu che difetto lamentavi? Che prendeva colpi perché non aveva i filtri? Colpi? Dove colpi pigliavo? Ecco, tu ti sei lamentato di quell'apparato solo perché non aveva i filtri, ma per esempio il 440 ha i filtri, per dire, no, è già migliore. Scusa, perfetto, quanti ce ne sono gli apparecchi che fanno quelle funzioni, che è meglio? Fammi un nome. Fammi un nome, basta cercare su internet, quanti ce ne sono? Gli AESO. Scusami, che sono i filtri, sono tutto. Vabbè, quello sì, Antonio, però guarda che certi escono male in AM, certi apparati non so se come gli AESO escono male, non tutti vanno bene in AM, il TMVD si presta abbastanza a uscire bene. Beh, non ho detto che riuscire per forza con quell'apparecchio in AM in trasmissione, usando una ricezione, che c'entra? Io facevo così, due antenne, una in trasmissione e l'altra ricezione. I due apparecchi, riuscivo benissimo, non mi lamentavo per niente, figurati tu. Ah, così è. E come facevi a silenziare quelle ricezioni a quello trasmettivi? Io è accidente, ci vuole molto a farlo, già lo sai. No, non lo so. Tu se tu entri nei due apparecchi, poi ti faccio vedere come si usa. Se uno sia l'altro, facciamo sempre così, non più i colpi, usavo due antenne e due apparecchi, se l'avete scritta, in trasmissione uno, ricezione è il 2009, perché il 2009 è sordo, capito? No, ma sordo no, Antone, io sentivo bene gente in banda laterale, anche bassa. Non è sordo, diciamo che non prende disturbi di vario tipo. Il mio 2009 è sordo, è perfetto, non piglia splatter, non piglia niente, grazie a Dio. Quindi usavo quella di ricezione e trasmissione, usavo il Kimball, perché è così, il colpo non piglia mai nessuno. Beh, vabbè, allora tutti i 3009 non prendo lo splatter, sono abbastanza resistenti. Certo non è come il multimode 3, no, quelli prendevano colpi. E quello è il discorso di questo, io mi avrei regalato, io sono regalato quelli, mica, non ce la fai. Vedi, avendo il multimode adesso non avresti nessun problema, perché non c'è nessuno che splatter. Guarda che la popolazione, come stamattina, ogni colpo di avvocato. Vabbè, la propagazione è un altro conto, gli splatter da gente locale sono un altro. Comunque io non mi lamentavo, mi usavo lo stesso, abbassavo la ricezione, come ti dico, c'era DX e locale, mettevo locale e si abbassavano molto i disturbi. Beh, così sì. La questione è giusta, ma dicendo il topo gas volto. Se non per prendere il copio di naso da toffo due apparecchi. Usavo un fatto di tipo di ricezione io. In questo senso era 50 api. Salute e vita. Bene, e tre. Bellata. Ma te l'immagini che Giuseppe Leoncino ci ha rovinato l'uscita? Ma che? Cosa è successo? No, perché già ne voleva uscire un po', a prenderci un po' di fresco, a berci qualcosa. E ha detto, vabbè, in due no, ha detto, se vuol venire Giuseppe. L'ho chiamato e no, non posso uscire, Stavo aspettando la madre, ha detto. Ma, buffami le luci. E fatto uscire, boh, per cosa dire, venite qua. E andavamo lì in giro a fare, ma non so cosa cambiava, scusa. Io qua mi c'avevo un amico. Venuto, siamo qui a fare la pizza assieme. Cioè, avevo lavorato assieme alla risata stasera. E quindi come è? Mi ha invitato la pizza e sono andato a casa e ho mangiato. Quindi lui mi ha detto, anche dopo cena per dire. Andavamo di lì, ci avevano qualcosa, poi mi davano a casa. Non è cambiato qualcosa la verità. La vita me l'ha cambiata. Però nel circolo no, cioè io esco per stare al fresco fuori, se ci si può sedere fuori sì, ma dentro no. Fuori, esco dentro, ma dove vai dentro? Fuori. Ma dove fuori? Qui c'è un posto fuori, se vuoi andare al circolo, ci sono circoli con la Sassari, dove bevi fuori, non dentro. C'era anche il limite del centro storico, poi faccio una passeggiata per dire, a parte, non so, avete conosciuto qualche amica mia, cioè avete passato meno un'ora, più che altro. Meglia, vabbè, sai perché io circoli non ne conosco, o locali, quindi non so dove si può andare fuori. Bene, Antone. Che ore sono, dimmi? La verità non lo so. A voi di 11, cosa sarà? Non sarà mezzanotte. Mezzanotte 10. Sono qui. Ci va bene allora. Perché vuoi rimanere fino a 1:25 come ieri? Mico più ai 5, figurati, stanotte. Se voglio qui io scendo a piedi e vado a bere una birra per dire. Chiude alle 5, alle 5 di mattina. E oggi sì, oggi è venerdì. Poi c'è sabato e domenica, fa karaoke. Allora, andiamo lì e cominciamo a bere fino alle 5 di mattina. Per me ci vuole andare, andiamo, non c'è problema, ci devono. Una vita assieme, cosa me ne frega a me? No, io sto bene qua, bello, a gambe aperte, sono sul fresco, il ventilatore. E poi se no perdo il parcheggio, ho trovato un parcheggio buono. Uso il gelato. Poi il parcheggio praticamente domani è all'ombra la macchina, almeno fino alle 11:30 è all'ombra, poi vabbè, arriva il sole. Vabbè, quello non sposti la macchina, blu blu. Se no domani devo uscire e me la trovo tutta accallata la macchina. C'è l'altro, blu blu. E poi... Non è come da te che è aperto lì la via e libero, qua è un casino trovare il parcheggio, certe volte proprio non ne trovi. Devo andare una via più su o una via più giù per trovare il parcheggio? Già lo trovi, a fuori di lì, già lo trovi. Seppuremi, certe volte non c'è proprio. Ti te l'ho detto, già lo vedi, il parcheggio fregato, già c'è da quelle parte. Dove abita quella volta? Io non trovo il parcheggio, ma con vostro, vigna la marabola, la farò fino alla vera lì, mamma mia. Lì no, lì è un casino. Adesso dove stai tu è meglio, caspita lì c'è un bel posto. Ti sembra detto. Ah, dici, perché molta gente torna a casa a cena? È tutto pieno in giro e gira. Ma è sempre pieno i parcheggi, sempre. Boh, che strano. Che cosa vuol dire questo lavoro, se è pieno, se è vuoto, lo dico io. sua franchigia, a lui ha soldi, capito, per l'economia. Appo compreso. Quindi tu stai dicendo. Buonanotte.